Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Anche domani saremo in diretta, ve lo anticipo. Il programma durerà fino alle 18, puntata della vigilia. Domani le borse saranno chiuse, o meglio, Milano soprattutto, però avremo altri temi. Oggi l'ultima seduta di borsa, ma soprattutto giornata carica, densa di notizie italiane più che internazionali. C'è qualcosa, per carità, che riguarda le agenzie di rating, i debiti sovrani, ma insomma la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Berlusconi, per quello che riguarda anche i temi economici, la conferenza stampa dell'opposizione, mi riferisco più a Luigi Bersani, e poi alcune cose che ci hanno un po' intrigato, per esempio il fatto che la Procura di Trani, con il massimo rispetto per la Procura di Trani, stia indagando per aggiotaggio l'agenzia di rating mondiale Moody's. Trani contro Moody's, perché? Lo scopriremo, c'è una denuncia dei consumatori per alcuni giudizi dati da Moody's sulle banche italiane alcuni mesi fa, a maggio se non ricordo male. È interessante perché insomma la procura di Trani attacchi la più grande agenzia di rating del mondo, va bene, Moody's comunque ha già detto che farà di tutto per collaborare con i magistrati. Grazie per gli auguri, grazie a tutti gli ascoltatori, lo dico una volta sola collettivamente per gli auguri di Buon Natale. Poi quelli del 31 ce li facciamo in diretta, visto che Focus Economia sarà in diretta anche il 31 dicembre. Domani ci facciamo quelli della vigilia, chiuse le formalità, passiamo alle notizie in breve e anche e soprattutto alla borsa. Allora la borsa va a chiudere l'ultima seduta prenatalizia con un più 0,20%, Milano meno 0,16%, Francoforte in questo momento meno 0,20%, Parigi più 0,15%, Londra, l'America più 0,12%, l'euro a quota 1,30. Il numero per gli sms è 349-238-6666, mi fanno segno dalla regia che non l'ho dato, avete ragione. I titoli: Parmalat più 2,60 come Autogrill, l'1,60 lo guadagna Fiat, l'1,30 Telecom Italia, l'1,2 Terna, l'1% Mediaset e anche Luxottica, Fondiaria più 0,90, Bulgari più 0,70 come Atlantia, Ubibanca più 0,6, Eni mezzo punto percentuale di rialzo come Enel. Chi perde di più? Tods, neodebuttante nell'S&P MIB, ma ieri ne aveva beneficiato, meno 1%, 1,6 scusate, Campari meno 1, DSORI meno 0,80, Generali meno 0,5. I migliori e peggiori in assoluto: Digital Brothers più 10, Intech più 8,60, Intech sulle risparmi invece meno 5,40, Ciccolella meno 4,60. Euro, dicevamo, petrolio a $90,6. E attenzione, perché molti di voi ci hanno chiesto: ma lei quando ne ha parlato dei prezzi della benzina con De Vita ha detto ma è più alta di quando il petrolio era $110 perché l'euro è più debole. Noi siamo andati a fare i conti, i raffronti, non è vero che è così, di pochi centesimi stiamo ragionando, però non si spiega, o meglio noi l'idea ce l'abbiamo, del perché con un petrolio a $90 la benzina costi più di quando il petrolio era a 110, e l'euro su dollaro non basta a spiegare queste differenze. L'OPEC comunque oggi dice il prezzo del petrolio raggiungerà i $100 al barile e un eventuale aumento della produzione verrà deciso in base all'andamento del petrolio. E nel frattempo, mentre l'ENI oggi ha esteso al 2012 l'accordo strategico con Gazprom, l'hanno firmato il numero uno di Gazprom Alexei Miller e il numero uno di ENI Paolo Scaroni, l'accordo che era in scadenza al 31 dicembre 2010. Nel frattempo, dicevo, sul fronte benzina sono ancora in stand-by i benzinai, cioè in attesa, In attesa di capire se il governo riuscirà, visto che nel decreto mille proroghe non c'era, a rinnovare il bonus fiscale. Hanno dato altre 48 ore di tempo, altrimenti chiuderanno le pompe di benzina tra Natale e Capodanno. E lì, voglio dire, auguri. Cosa vuol dire aggiotaggio? Chiede un ascoltatore. Ha ragione. Beh, si tratta di reati tipicamente finanziari, insider trading, aggiotaggio, turbativa di mercato, informazioni che nel caso di Moody's, le informazioni diffuse, il timore del reato è che le informazioni diffuse potessero essere poi utilizzate per speculare sui titoli, ma vi arriviamo. Dall'America qualche dato: la spesa personale a novembre più 0,4%, gli ordini beni durevoli a novembre meno 1,3%, le richieste sui disoccupati scendono a 420.000. Nel frattempo l'Europa, la Cina continua a dire, anzi oggi ufficialmente la portavoce del Ministero degli Esteri, Yang Yu, ha detto: siamo pronti a aiutare i paesi europei per superare la crisi finanziaria e rilanciare la ripresa. Magari faremo anche una puntata nel 2011 su questo, perché insomma io ricordo tutta questa spocchia nei confronti dei cinesi nel 2003-2004. Ah, sono dei taroccatori di t-shirt, falsificatori, è vero, in alcuni casi di scarpe italiane, mettiamo i dazi alla Cina. Vorrei sapere cosa ne pensano quegli esponenti, anche politici, che hanno sempre visto nella Cina il mostro, ora che i soldi dei risparmiatori cinesi servono a tenere in piedi i debiti, o parzialmente tenere in piedi i debiti dei paesi europei. Annunceremo anche un sondaggio, che pecunia non olet, quindi immagino che i soldi cinesi siano ben accetti, i prodotti cinesi meno, però non funziona così, andiamo avanti. Un po' di polemica tra il governo tedesco e la stampa tedesca, perché oggi la Süddeutsche Zeitung ha scritto che il governo tedesco sta ipotizzando un nuovo fondo un po' diverso, salva stati, un nuovo fondo per garantire la stabilità dei paesi dell'area euro. Il governo ha detto non è vero, non è in linea con quello che diciamo noi, insomma staremo a vedere. Nel frattempo la banca irlandese, che è stata l'origine del salvataggio, poi dell'obbligo di salvataggio di Dublino, la Anglo-Irish Bank, ormai è completamente nazionalizzata. Cioè, che la cosa che, se solo me l'aveste raccontata 3 anni fa, mi metteva a ridere, che la Gran Bretagna e l'Irlanda sarebbero state le prime a nazionalizzare delle banche, cosa che è una bestemmia nei paesi anglosassoni, mai l'avrei immaginato. Insomma, ormai il governo irlandese ha il 92% della Allied Irish Bank, che già aveva ricevuto 3,5 miliardi l'anno scorso, adesso ne ha ricevuti altri 3,7, per cui lo Stato irlandese ha il 92%. Immaginate se in Italia lo Stato fosse entrato col 92% nel Monte dei Paschi, in Intesa, in Unicredit, sarebbe successo di tutto. I rating, i voti e i debiti dei vari paesi. Fitch, la gestione del rating Fitch, ha tagliato il rating, il voto all'Ungheria, BB-, appena sopra il junk. Non è un bel periodo per l'Ungheria, che sapreste essere il paese guida del semestre europeo. Ha fatto una legge sulla stampa che è un abominio, non è oggetto di questo programma, ma insomma le notizie cattive possono essere al massimo il 20% nei telegiornali. C'è un'unica fonte di agenzie, chiaramente a controllo governativo, insomma una legge veramente non so, ignobile. Questo del 20% di notizie cattive massimo è bellissima, penso che sia il sogno di ogni governante non democratico, avere solo un 20% di notizie negative. Chissà come sarebbe questo programma, no? Se lo facessimo in Ungheria. Comunque, Fitch ha tagliato il rating, il Portogallo invece è di nuovo sotto minaccia da parte di Moody's, che dice stiamo valutando seriamente di abbassare il debito, però Moody's a sua volta è sotto minaccia della procura di Trani. Ha aperto un'inchiesta per aggiotaggio e market abuse, quindi anche manipolazione del mercato, per aver diffuso informazioni false o non del tutto vere, con l'effetto di far crollare in borsa il mercato dei bot italiani. I fatti si riferiscono al 6 maggio scorso, in cui si diceva che il sistema bancario italiano era tra quelli a rischio, e noi demmo un gufo allora, me lo ricordo benissimo, a Moody's, dicendo non si può uscire con un comunicato del genere senza specificare quali banche, dove, insomma quanto a rischio. Fiat, di Fiat parleremo più avanti. È ripresa la trattativa tra aziende e sindacati, il caso è Fiat Mirafiori. E ancora sul fronte italiano invece segnalo che lì è stato fatto sapere che l'offerta dei posti delle imprese, quindi la domanda di lavoro delle imprese, è in aumento, poco ma più 0,6%, e che ci sono 45.000 posti vacanti nelle imprese delle industrie dei servizi privati. C'è chi mi corregge dicendo: guarda che le notizie non erano quelle negative, quelle di cronaca nera. Sì, l'abbiamo detto, però le notizie di cronaca nera di solito sono negative, no? Allora, anche mettere un tetto alle notizie di cronaca nera del 20%, cosa vuol dire? Prendiamo i primi 3 omicidi, il quarto non può andare in onda? Bello. Dai, siamo seri. Nel frattempo, una buona notizia prima di passare al nostro primo tema. Ce lo danno due gruppi, o due eventi soprattutto. Da un lato il fatto che i lavoratori ex GEAS, quindi le pulizie dei treni in Sardegna, trasconderanno un Natale più sereno. Sono 103 lavoratori, sono arrivati i soldi attesi da luglio, 2.400 euro, cioè due mesi di stipendi arretrati, sono 1.200 euro di stipendi, e questo grazie all'accordo siglato a Roma il 13 dicembre. Dall'altro gli stipendi degli operai dei lavoratori della Vinyls, che sono scesi ieri da Torre di Marghera, contro l'ipotesi di chiusura, si erano arroccati sulla torre contro l'ipotesi di chiusura degli impianti in Veneto, Sardegna ed Emilia Romagna. E poi anche, ricorderete, sono gli stessi dipendenti, quelli sardi, che sull'Asinara diedero via l'isola dei cassa integrati da 300 giorni all'Asinara. Ebbene, da oggi arrivano lo stipendio di dicembre e le tredicesime per gli operai della Vinyls, come ha ricordato al microfono il nostro Nicola Filippone, il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani. Adesso parte l'ultimo pezzo di trattativa direttamente con i commissari del Ministero per un closing che è previsto intorno al 15 di marzo per l'acquisizione definitiva degli impianti e per l'inizio della produzione. Questo riguarda Porto Torres, Porto Marghera e Ravenna. Sono stati trovati anche le risorse che servivano per pagare gli stipendi da oggi fino a febbraio. Quindi chiedo ai dipendenti, agli operai, a coloro che si sono impegnati legittimamente e giustamente per la difesa del posto del lavoro, di tenere conto che le cose sono state fatte, e quindi mi auguro che passino anche loro un buon Natale e un buon inizio d'anno. Allora, così il ministro Romani. E adesso il primo tema, mi riferisco alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, chiaramente a Villa Madama oggi, e poi anche la conferenza stampa del leader dell'opposizione Pierluigi Bersani. Allora, che cosa è successo? Chiaramente Berlusconi ha parlato di tutto, non solo di economia, ma qualche passaggio, diciamo, sulla stabilità, sulla crisi, sull'Italia c'è ed è degno di nota. Due risposte brevissime. Vabbè, apprezziamo la battuta: l'Ungheria ha fatto una legge bulgara, non male. E invece c'è chi dice: ma insomma, il guadagno è sempre dei cinesi. Che domande fate? No, scusatemi, se la Cina compra obbligazioni europee è chiaro che ci guadagna, come tutti quelli che comprano un botte, deve farlo gratis perché sono cinesi, mica hanno l'anello al naso, però garantisce liquidità ai paesi europei che altrimenti dovrebbero offrire rendimenti ben più alti, quindi i cittadini di quei paesi, Portogallo su tutti, vedrebbero aumentare il loro deficit e il loro debito. Per cui attenzione, che chi ti presta i soldi è chiaro che ci guadagna, ma obiettivamente mica gliel'ha ordinato il medico di comprare debito europeo. Che discorsi sono? Dai, prima di Natale niente polemiche. Dino Pesole, inviato da Sole 24 Ore, ogni volta che parla il capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, buonasera. Buonasera, eccomi. Allora, ti abbiamo visto inquadrato in una conferenza stampa fiume, quasi 3 ore di conferenza stampa, complimenti alla dote di resistenza del Premier e dei giornalisti che erano in sala. Molti temi toccati, soprattutto, diciamo, per quello che riguarda la parte economica. Berlusconi è intervenuto anche sui titoli di Stato italiani, e soprattutto sulla manovra, sull'ipotesi di manovra correttiva. È tornato anche a cavalcare dei temi per lui classici, come il bisogno di ottimismo e i fattori psicologici. Sentiamo questi due passaggi, il primo su come vanno i titoli di Stato italiani, il secondo invece sul non bisogno di una manovra correttiva, di una finanziaria bis. I nostri titoli del debito pubblico continuano a essere assorbiti dal mondo interno e dal mondo finanziario internazionale con assoluta regolarità. Ecco, vi ricordo che le agenzie di rating avevano dato come condizione essenziale per mantenere il livello di valutazione al nostro Paese quello della stabilità di governo. Sarebbe stato perciò veramente una catastrofe entrare in una fase di ingovernabilità, di scarsa governabilità, dando luogo a una campagna elettorale che sarebbe stata anche molto feroce nei toni. La manovra correttiva non sarà fatta perché non c'è la previsione della necessità di questa manovra, e anche il commissario europeo competente in materia ha escluso questa necessità. Nella crisi il fattore psicologico è importantissimo, e l'invito che io dal cuore do a tutti gli editori di giornali e ai giornalisti è di non dare soltanto rilievo alle notizie negative. Vabbè, invito che accogliamo, come si accoglie per dovere qualunque invito di qualunque Presidente del Consiglio, però su questo tema delle notizie negative sarei anche un po' stufo, abbiamo anche il gufo noi per esorcizzarle. Se l'economia va con la peggiore crisi degli ultimi 50 anni, cosa dobbiamo fare? Raccontare come va l'economia, non so, del Bhutan o della Cina? Questa è la situazione in cui viviamo e questo è quello che cerchiamo di raccontare. Dopodiché qualche notizia positiva c'è, ma visto che parlavo di Ungheria non voglio avere messaggi con la battuta ovvia tra i desiderata della classe politica e la legge ungherese. Al 349-238-6666 ne sono già arrivate abbastanza, restiamo sui temi economici. Allora, Dino Pesole, un Berlusconi che riconosce, come spesso fa, il lavoro svolto dal ministro Tremonti. Tremonti che è da settimane silenzioso, silenziosissimo, magari si vuole commentare anche su questo. Cioè, a parte le uscite europee sugli eurobond, non si sente più una parola del ministro Tremonti in Italia. Però insomma, Berlusconi che dice che bisogna puntare sull'ottimismo, abbiamo garantito la stabilità, non dice molto altro sul fronte della crisi, si tiene prudente, è tauto e parati. Ha detto più volte che la crisi è strutturale, dunque bisogna attrezzarsi per farvi fronte. Il fatto che ricorra all'ottimismo credo che sia anche un po' nel ruolo che giustamente, certo, il Presidente del Consiglio deve avere, perché pur essendo consapevole della situazione deve comunque lanciare un messaggio di ottimismo. Certamente la prima parte della conferenza stampa, almeno per quel che riguarda i temi economici, sarà dominata da queste grandi rassicurazioni del Presidente del Consiglio sulla tenuta dei nostri titoli del debito pubblico, come vengono collocati sui mercati, e sul fatto che non ci sarà bisogno di manovra bis. Però poi per il resto non ha detto molto di più, ad esempio sui provvedimenti che comunque dovrebbero essere necessari per sostenere la crescita. Allora, su questo poi altri passaggi che hanno riguardato temi più di carattere sociale, ancorché economici. Berlusconi ha detto: abbiamo resistito alla crisi economica meglio di altri paesi, abbiamo tutelato i lavoratori con una quantità di risorse per la cassa integrazione anche per autonomi precari, abbiamo garantito l'accesso al credito grazie a incentivi alle piccole e medie imprese e alle famiglie, 4 miliardi e mezzo di crediti erogati alle PMI con garanzia dello Stato, 300 milioni di incentivi dati a sostegno di vari settori produttivi e 8 miliardi complessivi di crediti. Sono stati garantiti pagamenti puntuali dello stipendio a oltre 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici, non è stato così in altri paesi. E poi si è arrivati a una tua domanda. Allora, ascoltiamola, diciamo, oggi ti trasformiamo anche in un personaggio, Dino. La domanda che tu hai rivolto a Berlusconi relativamente ai provvedimenti per far crescere di più questo paese, diciamola tutta, dai. Allora, riporto ai temi dell'economia, il problema si chiama crescita, come noi sappiamo, non lo diciamo noi, lo dicono tutti gli osservatori italiani e internazionali, quest'anno e l'anno prossimo l'economia italiana crescerà, se va bene, dell'1%, tanto per fare un esempio la Germania crescerà del 3,4%, la media europea sarà dell'1,7-2%. Allora, qualora lei riuscisse a superare questa fase critica, allargare la sua maggioranza, quali sono i provvedimenti che ha in mente per risolvere questo che resta il problema principale del nostro Paese? Grazie. C'è un provvedimento che mi pare possa essere importante ed è quella che abbiamo chiamato la rivoluzione liberale. Cito questo tra tanti altri. Oggi per aprire un albergo, per aprire un ristorante, una pizzeria, abbiamo fatto un calcolo, occorrono 18 autorizzazioni preventive. Con la norma che noi auspichiamo possa diventare legge dello Stato, un privato può invece mettere in campo questa attività indipendentemente dalle autorizzazioni preventive, con la pubblica amministrazione che si riserva una visita successiva di controllo per vedere se sono stati rispettati i regolamenti urbanistici, i regolamenti sanitari, eccetera. Questo fatto di non consentire soltanto ciò che è espressamente vietato, io credo che sia una vera rivoluzione che potrebbe dare il modo a moltissimi italiani, a moltissimi imprenditori italiani di sviluppare la loro attività. Per esempio, io conosco una persona che ha un'attività commerciale soltanto in due città e che secondo me invece sarebbe un'attività commerciale che potrebbe espandere lungo tutto il paese, come ha fatto i Benetton, eccetera, eccetera, no? Mi ha detto, ma si rende conto delle difficoltà che ci sono per aprire un negozio? Come faccio io? Dovrei dotarmi di una struttura organizzativa, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, ho tentato, ma poi ho rinunciato, perché ci vogliono non mesi, ma più di un anno. Per questa, per esempio, della possibilità di operare senza questi impicci che le leggi e la burocrazia del paese impongono, mi parrebbe un modo concreto per innestare un maggiore sviluppo della nostra economia. La ringrazio. Allora, d'accordissimo, tant'è che anche noi proporremo, ripeto, un programma sulle riforme a costo zero e quindi le liberalizzazioni, la sburocratizzazione d'impresa. Ci raccontava il presidente di Federmeccanica Ceccardi che per aprire una fabbrica in Spagna ci aveva messo 3 mesi, forse anche qualcosa di meno, 18 mesi per aprire in Italia. Questo è obiettivamente inaccettabile. Lo facessero, però, perché insomma l'annuncio delle leggi ormai è diventato un po' troppo, una mole eccessiva. Facessero questa riforma in Parlamento liberale. Dino Pesole, per non essere sempre però troppo critici, mi sembra che da solo non basti, però. Certo, è un passaggio fondamentale, siamo tutti d'accordo da anni, lo diciamo tutti in varie sedi, che uno dei problemi principali del nostro paese è proprio questo, cioè fare impresa nel nostro paese, appunto, è un'impresa, dunque è difficilissimo. Però obiettivamente, anche tenendo conto dell'impasse politico in cui obiettivamente il Presidente del Consiglio si trova, avendo superato la prova della fiducia il 14 dicembre con soli 3 voti, forse su questo terreno avrebbe potuto spendere qualche parola in più, anche perché obiettivamente il problema numero uno di questo paese è questo, tutto il resto è una conseguenza di questo problema, sì, tanto sì. Per dirne una, il debito pubblico lo sappiamo tutti che ce l'abbiamo sul nostro groppone lo avremo per molti anni, ma esattamente questo è anche un modo per cominciare a ridurre il modo stabile. Sì, no, poi va detto che insomma adesso direte che appoggio sempre Tremonti, ma insomma che sul fronte del controllo della spesa pubblica il ministro Tremonti si è mosso assolutamente in linea con la tradizione migliore di questo paese, Carlo Azeglio Ciampi, Dini, Amato, per cui insomma ha tenuto botta Padoa-Schioppa, il compianto Padoa-Schioppa ha tenuto botta e lo riconobbe lo stesso Padoa-Schioppa in un'intervista, e gli elogi, gli apprezzamenti sono gli attestati, sono arrivati da tutta Europa, anche dalle agenzie di rating, dall'Eurogruppo, dai vertici europei, per cui insomma l'Italia ha un debito alto, ma è un debito che è peggiorato molto meno, quindi è cresciuto molto meno rispetto ad altri paesi. Il problema è che noi non cresciamo. La Confindustria ha appena rivisto al ribasso la stima sul PIL 2010 e anche 2011, cioè siamo sempre all'1,1-1,2%. Poi vedo che molti ascoltatori ci fanno notare che però allo stesso tempo questo è il governo, il Parlamento, in cui si vanno a cancellare le liberalizzazioni di Bersani sulle farmacie e sugli avvocati. Avete ragione, abbiamo anche litigato col presidente degli avvocati italiani per la reintroduzione delle tariffe minime, per cui vabbè, speriamo che le liberalizzazioni acquistino veramente vigore, diventino veramente un elemento connotante dell'azione di governo. Meteo, pubblicità e poi altri due passaggi di un peso: la riforma fiscale e la riforma dell'università, visto che poi il DDL Gelmini è passato poco fa al Senato. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ultimi passaggi della lunghissima conferenza stampa di Silvio Berlusconi, i passaggi di carattere economico. La riforma fiscale, sì, qui devo dire non siamo nemmeno alle promesse, qui c'è l'ammissione che sarà un lavoro necessario ma non sarà né breve né facile, quindi insomma di là da venire. La riforma fiscale, sono 40 anni dal 1970 che si sono cavallate le leggi una sopra l'altra, molte le abbiamo già eliminate abrogandole, ma ancora oggi c'è una selva di leggi che, a detta anche dell'Associazione Nazionale dei Dottori Commercialisti, rende difficilissimo il lavoro degli stessi professionisti che non sanno mai, non hanno mai la sicurezza nel consigliare una soluzione ai loro clienti. E da qui una quantità enorme di cause che l'Agenzia delle Entrate produce nei confronti dei contribuenti fiscali che sono dovute proprio alla incertezza nell'interpretazione di queste leggi. Vogliamo arrivare a un codice di leggi fiscali abolendo la grandissima parte di queste norme che si sono susseguite in 40 anni. Abbiamo aperto un tavolo e un lavoro molto utile, approfondito, direi preziosissimo, con le forze sociali. Abbiamo esattamente 4 tavoli con la Confindustria, la rete dei commercianti, lavoratori autonomi, artigiani e con i sindacati. Stanno lavorando, non sarà un lavoro breve e non sarà un lavoro facile. Allora, Dino Pesole, avete notato tutti che qui si parla di semplificazione fiscale, non di riduzione fiscale? Eh sì, questo è il punto, ma è esattamente quello che stanno facendo i tavoli di lavoro. Cioè, che va bene, perché chi scrive sì, ma se semplifichiamo l'avvio di impresa, la sburocratizziamo, poi se non c'è il cliente tu che cosa dà per fare la pizzeria? Ho capito, però almeno fai le riforme a costo zero, quello che rendono meno costoso aprire la pizzeria, il ristorante, l'albergo, il negozio. Certo che poi deve ripartire l'economia complessivamente, ma già, insomma, se qualcuno si mette in moto o spende meno per avviare un'attività è un vantaggio, non scherziamo su questo. Però di riduzione fiscale non se ne parla proprio, perché altrimenti Tremonti minaccia le dimissioni. C'è un percorso di semplificazione fiscale, Dino, forse? Cioè, il percorso di semplificazione fiscale, i due piani sono distinti anche se connessi, perché il lavoro che stanno facendo i tavoli tecnici è esattamente quello, poiché dai calcoli messi a punto dalle varie commissioni tecniche si è scoperto che ci sono oltre 240 sistemi attuali tra deduzioni, detrazioni e quant'altro, quindi sicuramente un lavoro di accorpamento potrebbe essere utile, ma questo nulla a che fare con il necessario lavoro che invece bisognerebbe fare per ridurre obiettivamente la pressione fiscale, che è ormai oltre il 43%, e come noi sappiamo nel nostro paese finisce per pesare in misura rilevante su chi le tasse le paga per intero perché non le può evadere. Dunque questo è un problema. Sì, noi abbiamo un welfare che sta diventando sempre più americano, scuole private, sanità privata e delle tasse che però restano scandinave. Per cui, insomma, vorremmo il contrario, ecco. Esatto, ma il problema qui è di ordine politico, perché obiettivamente per fare una riforma di questo tipo, che poi dovrebbe essere una riforma delega, una legge delega. Voglio arrivare a questo, però prima chiudiamo il capitolo anche dell'Abruzzo, perché ieri abbiamo avuto ospite il sindaco dell'Aquila Cialente, che ha minacciato di invitare tutti a non pagare le tasse, di portare il carrello all'Aquila se non viene prorogata la dilazione nel pagamento delle tasse, i 13 mesi per cui gli abruzzesi, gli aquilani non hanno pagato le tasse. Ascoltiamo questo e poi la domanda delle domande, perché qui la maggioranza politica è fondamentale per fare riforme. Però Abruzzo, Chi l'avesse perso, ascoltiamo un passaggio di cosa Massimo Cialente ci ha detto ieri. Visto che dal mille proroghe era sparito ed è sparito la proroga al pagamento delle tasse sospese, non è che non pagheranno le tasse gli abruzzesi e gli aquilani, si tratta di dilazionare un certo periodo di tempo e prorogare questo inizio del pagamento. Cialente ieri qui a Focus Economia. Noi siamo veramente assolutamente increduli di questa vicenda, perché erano state assicurazioni e diciamo così dichiarazione del primo ministro di Silvio Berlusconi che noi avremmo avuto lo stesso trattamento delle altre aree colpite dal terremoto. Per la precisione, il problema non è di tornare a pagare le tasse, perché noi stiamo pagando, pur stando ancora in piena emergenza, tutte le tasse dal primo di luglio. Qui si tratta di avere un rinvio per la restituzione di quello che non abbiamo pagato nel periodo di sospensione, nei 14 mesi della sospensione. Negli altri terremoti, prendiamo l'Umbria, Marche, il Molise e così via, la restituzione è avvenuta al 40% dopo 12 anni in 10 anni. Noi siamo chiamati a restituire dal primo di gennaio, saremo chiamati a restituire il 100% in 10 anni. Cosa vuol dire? Che in questo momento in cui che siamo in piena emergenza, noi saremo il pezzetto d'Italia, quel pezzetto piccolo nel centro della penisola che pagherà più tasse. Cioè... Così Massimo Cialente ieri, Berlusconi oggi sull'Abruzzo. Stamattina il motivo del mio ritardo è dovuto alla presenza a Palazzo Chigi del sindaco dell'Aquila Cialiente, del presidente della regione che ci hanno intrattenuto sulle aspettative che le aziende, gli artigiani, i lavoratori autonomi dell'Aquila e dell'Abruzzo hanno in relazione alla restituzione di quelle tasse che erano state sospese come pagamento. Io spero di poter arrivare a spostare dal primo di gennaio al primo di luglio il termine d'inizio di questo pagamento. Siamo ancora in discussione per il fatto se debba riguardare le aziende che hanno un fatturato sino a X oppure per tutte le aziende, qualunque sia il loro fatturato. Spero di poterlo fare. La ragioneria sta facendo i conti per poter dare questa possibilità alle imprese e all'economia dell'Aquila. Allora, speriamo, però avete visto che ancora è in dubbio, in forse, se potranno ottenere lo spostamento fino al primo luglio. Comunque, Dino Pesaro, la domanda delle domande è questa. Diciamo, i conti pubblici devono essere mantenuti sotto controllo, le tasse non si possono ridurre, l'economia deve crescere di più e fin qui, diciamo... Berlusconi dice faremo delle riforme liberali. Ora, il problema delle riforme è uno e uno solo. Per fare riforme in questo paese, ormai lo sappiamo tutti, serve un grosso consenso. Allora, gli ascoltatori dicono: ma se prima aveva una maggioranza di 60 deputati, adesso non ce l'ha più perché è passato con 3 al Senato, come possiamo immaginare che farà queste riforme? Cioè, il tema delle riforme economiche può essere un tema bipartisan o comunque condiviso anche da altri pezzi del Parlamento? Senz'altro sì, in un altro clima politico però, perché quello sarebbe, anzi, lo stesso Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, proprio 3 giorni fa nel suo discorso di fine anno alle massime cariche dello Stato, si è proprio questo, esattamente questo, cioè che insomma è possibile che su questi elementi di base per far crescere l'economia non sia possibile arrivare a un consenso da parte di tutte le forze politiche. In un clima politico diverso sarebbe addirittura auspicabile e doveroso che per far crescere il paese insieme ci fosse un'intesa. Al momento mi sembra che al massimo il Presidente del Consiglio possa sperare di allargare la sua maggioranza e dunque di riuscire a fare quel che potrà fare con una maggioranza allargata. A questo punto il problema fondamentale è a chi aprirà i suoi consensi e se ad esempio come immagine, come lo stesso Presidente del Consiglio lascia intendere, ci sarà un'apertura all'UDC o al famoso terzo polo, è anche questo un elemento importante per capire il tipo di riforme che potrà essere messo in campo grazie all'appoggio di questa nuova forza. Se questo non sarà possibile, non penso che questo governo abbia un grande futuro, perché obiettivamente con tre voti di scarto è molto difficile governare. Vogliamoci fare riforme importanti. Il déjà vu di Prodi. Chiudiamo però sulla domanda curiosità iniziale. Secondo te perché il ministro Tremonti è così silenzioso? Cioè, parla solo in Europa di temi molto importanti, molto alti, molto poco italiani, e molto poco di politica, di Eurobond, ma insomma è settimane che non rilascia dichiarazioni anche durante la crisi. Ma guarda, proprio due o tre giorni fa ci ha ricevuto al Ministero per il Brindisi. Per il Brindisi di fine anno, e lì eravamo molti giornalisti, infatti ci siamo anche un po' interrogati tutti se effettivamente fosse un saluto così, appunto un brindisi, oppure se il ministro intendesse dire qualcosa. In effetti non ha risposto ad alcuna delle nostre domande, rivolte sia pure una sede informale col bicchiere di spumante in mano e il panettone nell'altra mano. Quindi io penso che la sua prudenza sia sostanzialmente connessa a questo, cioè Tremonti è nel governo obiettivamente forse l'unico che conosce come stanno le cose, e dunque in questa fase, e fino a che non ci sarà un barlume di ripresa, molto difficilmente potrà far capire o lasciar prefigurare le prossime mosse, e dunque preferisce una linea di prudenza. Credo che tutto sommato sia preferibile la prudenza piuttosto che annunciare e poi non riuscire a portare a termine. Allora vedremo. Sì, il silenzio di Tremonti a mio avviso è molto evocativo. C'è il traffico, grazie Dino Pesole, buon Natale Dino e buon anno a questo punto, visto che io la prossima settimana non condurrò alcuni giorni, e quindi tu goditi un meritato riposo, e soprattutto poi vedremo di capire anche nel 2011 come si prepareranno le manovre di bilancio per l'anno, quindi la politica economica del paese. Grazie Dino Pesole. Grazie a voi. Auguri a tutti. Grazie. Traffico, poi alcune risposte, la borsa, la Fiat e la procura di Trani contro Moody's. Trani contro Moody's. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, commentiamo l'ultima borsa prima di Natale e poi gli altri temi. Devo dire molte, sì, avete ragione, a Vicenza stanno passando con i megafoni a dire di mettere in sicurezza auto e beni, l'abbiamo detto anche nei nostri GR, c'è di nuovo un livello di allarme per le piogge continue, speriamo. Su Vicenza però mi date lo spunto con questo messaggio per leggere una cosa, allora leggiamo questa piccola cosa e poi passiamo ai mercati. Visto che il Premier chiede buone notizie, ogni tanto qualche buona notizia la diamo. C'è chi dice: ah, bella vita Barisoni. Ho capito, sono in ferie 27, 28, 29. Il 3 siamo di nuovo in diretta qui. Oh, vabbè. A Natale e Santo Stefano, chi comprerà in autogrill? Noi non facciamo mai pubblicità, però questa è una notizia che ci piace. Chi comprerà negli autogrill del paese comprerà, avrà a disposizione un percorso, una parte che si chiama Compra Made in Veneto. In sostanza sono impegnati oltre 450 punti vendita sulle autostrade in un periodo natalizio in cui, pensate, autogrill in questo periodo ha 400 milioni di contatti, vuol dire 400 milioni di persone che entrano in autogrill. Ci sarà un'apposita segnaletica che permetterà ai clienti di riconoscere i prodotti di Compra Veneto, una settantina, vini, formaggi, panettoni, di tutto, mi fermo, salami, soppressi, mi fermo se non mi viene fame, e grazie a questo tutto il ricavato andrà agli alluvionati di Vicenza, Padova e Verona. Adesso, dopo esserci occupati anche questa volta di Vicenza, Padova e Verona, adesso la borsa. La borsa chiude l'ultima seduta prima di Natale a Milano con un più 0,2%, a Parigi con un meno 0,2%, a Francoforte con un meno 0,1%, a Londra con un più 0,2%. Anche questa non mi sembra una giornata di quelle memorabili. Il Dow Jones è invariato, evidentemente i trader sono già con un piede verso le vacanze di Natale. Ancora la giornata di borsa come sempre con Radio Corriere Sole 24 Ore. Ed è la volta di Guido Maurino. Guido, buonasera. Buonasera. Allora, borsa priva di direzioni, questo obiettivamente ce ne siamo accorti anche noi. Proviamo a commentare Todds che realizza dopo l'ingresso nell'S&P MIB, meno 1,85%. Diciamo che Todds era già scivolata dopo il collocamento del 10%, aveva poi ripreso, che questo collocamento del 10% è venuto nei giorni scorsi anche per aumentare il flottante, eccetera, visto l'ingresso della società nel listino principale, aveva poi ripreso e oggi insomma un po' di prese di beneficio che hanno portato il titolo appunto a chiudere a meno 1,85%, è il titolo peggiore del listino principale. Ancora, andiamo avanti con i titoli tra i migliori. Beh, di Assorin meno 1%, altro ingresso, Campari meno 1, migliori Parmalat più 2,6. Qui c'è una notizia di mercato in realtà. Sì, per quello che riguarda Parmalat c'è questo accordo transattivo che è stato raggiunto con General Electric Capital Finance. Nel dettaglio, insomma, la società americana rinuncerà a insinuarsi nel passivo della vecchia Parmalat in cambio di 7,3 milioni di euro e Parmalat dal canto suo, oltre a pagare questi 7,3 milioni, rinuncerà contestualmente alle istanze revocatorie che aveva già promosso contro il gruppo. Ancora, visto che parliamo di Autogrill, bene oggi Autogrill, ci sono due nuovi accordi, anche qui notizie di mercato. Autogrill fattura il 50% quasi negli Stati Uniti perché fornisce e gestisce i servizi di ristorazione aeroportuale nella stragrande maggioranza degli aeroporti americani e anche in altre stazioni. Notizie su Autogrill, il titolo guadagna il 2,40%. Sì, ha annunciato due nuovi accordi proprio negli Stati Uniti, negli scali aeroportuali di San Francisco e di Sacramento e il rinnovo per l'aeroporto canadese di Toronto. Inoltre è anche, come dire, avvantaggiato dal fatto che i dati diffusi sul traffico aereo negli Stati Uniti a novembre abbiano fatto registrare un più 1,6% annuo, quindi un buon dato che conferma il trend positivo dei viaggiatori negli aeroporti degli Stati Uniti. Ancora, adesso parleremo di Fiat per quello che riguarda la giornata economico-finanziaria, il tentativo di arrivare a un accordo a Mirafiori. Fiat comunque guadagna anche oggi più 1,4%. Sì, anche oggi si è mossa bene, fin dalla mattinata è sembrato chiaro che potesse arrivare un accordo, siamo in attesa anche noi di capire quando ci sarà e per cui insomma per tutta la mattinata si è mossa bene. Allora, bene si è mossa anche Terna più 1,20, Telecom Italia più 1,20 anch'essa, Mediaset più 1% come Bulgari, Luxottica più 0,90 come Fondiari Sello, 0,70 invece lo guadagna Ital Cementi, negativo oggi anche il Banco Popolare meno 0,5%, Impregilo meno 0,5%. Buon Natale a te Guido e a tutti i colleghi dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore che anche quest'anno ci hanno accompagnato a raccontare una borsa, diciamo così e così, ma non per colpa vostra. Grazie anche a voi. Grazie ancora, visto che l'ho detto, vi dico anche che la borsa italiana da inizio anno ha perso il 10,8%, il FTSE All Share il 9%, questo è il livello. L'America invece è sopra di un 10%. GR e poi Fiat e Trani contro Moody's. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa puntata. Ripeto, domani saremo in diretta fino alle 18. Però, chiuso l'approfondimento di borsa, altro tema di questa giornata, prima di arrivare a Trani, è chiaramente la Fiat, o meglio lo stabilimento Fiat di Mirafiori, incontro lungo tra i vertici della Fiat e i sindacati. Allora, parliamo di Fiat e dell'accordo per Mirafiori. Tutto si sta svolgendo in questi minuti, da quello che capiamo è dato per certo che la FIOM, quindi la CGIL del settore metalmeccanico, non firmerà l'accordo. Chiedo però conferma all'inviata dell'agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, Paola Catarsi, che è a Torino. Paola, buonasera innanzitutto. Sì, eccoci dunque. Allora, sì, proprio adesso abbiamo parlato con Federico Bellono della FIOM di Torino, che sta conducendo la trattativa proprio per la FIOM CGIL. E dunque lui ha detto che assolutamente la FIOM non firmerà, perché dunque la Fiat oggi ha introdotto nell'ipotesi di accordo una modifica al regolamento delle rappresentanze sindacali aziendali. Che appunto secondo la FIOM buttano a mare, diciamo, 20 anni di relazioni industriali e mettono a rischio la democrazia, diciamo, all'interno della fabbrica, perché allora sono dunque a causa appunto di questa modifica No, immagino perché stanno uscendo, sì, ed è il momento conclusivo. No, capisco la tua difficoltà. Tu ci dicevi la modifica che ha introdotto alla rappresentanza sindacali viene contestata da FIOM e fra poco. Da FIOM, infatti, sì. Perché appunto dicono che è un attacco alla democrazia. In quanto dunque la FIOM appunto dice. Allora, in pratica, perché appunto se uno non ha firmato il contratto, no, non è rappresentato a livello sindacale, e quindi chiaramente è un problema di democrazia. Ecco, per quello che riguarda CISL e UIL invece si va verso CISL e UIL sì, gli altri sì, infatti, gli altri dunque non, infatti Bellono si è detto proprio scandalizzato dunque dal fatto che sul tema delle rappresentanze nessun'altra sigla sindacale, diciamo, ha sollevato questa questione, ecco. Quindi dice, FIOM che contesta l'assenza di democrazia nella rappresentanza sindacale alla luce della nuova norma introdotta e proposta dalla Fiat. Io sento che appunto sei nelle fasi più concitate, ti lascio lavorare anche per l'agenzia, perché capisco che in questo momento invece si stia arrivando alla stesura dell'accordo con gli altri due sindacati. Poco fa, e grazie quindi a Paolo Catarsi, poco fa il nostro Paolo Piacenza ha raggiunto il responsabile auto della FIOM, Giorgio Airaudo, che ha spiegato in maniera anche molto dura, come era presumibile, il perché del no della FIOM all'accordo proposto da Fiat per Mirafiori. Qual è la situazione al momento al tavolo Fiat? Ma che la Fiat sta ripresentando l'identico schema di Pomigliano, quindi con 120 ore di straordinario, l'aumento delle turnazioni, le sanzioni sulla malattia costruite con un diverso decalage, ma le sanzioni e le clausole di responsabilità verso i sindacati e i lavoratori, con questa dichiarazione di non applicazione del contratto nazionale nella NUCO e di non applicazione dell'accordo interconfederale, cosa che impedirebbe ai metalmeccanici della CGIL di avere rappresentanza. Cioè, quindi siamo a un aggravante per quel che ci riguarda rispetto a Pomigliano. La Fiat vuole semplificare le rappresentanze sindacali e il pluralismo sindacale, vuole avere un unico sindacato uniformandosi all'altra parte della società, quella americana e la Chrysler, e lo fa espellendo chi dissente, i metalmeccanici della CGIL, e rendendo inutili e innocui chi consente attraverso procedure e sanzioni. Mi sembra una cosa gravissima, è un attacco alla libertà di associazione sindacale, credo che dovrà rispondere tutta la CGIL. Ecco, quindi i margini per la trattativa non c'erano proprio perché l'accordo pare, dal vostro punto di vista, peggiorativo rispetto a quello che è stato siglato per Pomigliano e anche rispetto a quello che vi era stato proposto il 3 dicembre. Beh, direi che è sicuramente peggiorativo rispetto a Pomigliano, perché a Pomigliano non c'era l'accordo, la NUCO, per superare il contratto nazionale, e non si esplicitava che non si voleva applicare l'accordo sulle rappresentanze sindacali. Quindi è peggiorativo dal punto di vista proprio di rappresentare i lavoratori e della libertà di associazione sindacale. E poi, come si dice, è peggiorativo rispetto al 3 dicembre perché è più esplicito. Francamente, se mediazione confindustriale c'è stata, non se ne vede l'effetto sul tavolo trattativa. La Fiat non si fida, procede da sola e chiede al sindacato di sostenere coi lavoratori l'investimento a scapito di diritti, libertà sindacali e peggioramento delle condizioni di lavoro. Così si va verso il conflitto. Noi vogliamo l'investimento, ma non siamo disposti a impoverire e a ridurre le libertà dei lavoratori. Quindi giudizio negativo rispetto a questa intesa, cosa farete? Ma intanto siamo di fronte a un accordo che più che essere un regalo di Natale è un pessimo regalo, uno di regali di questo tipo potrebbe farne anche a meno. I lavoratori rientreranno a partire dal 10 gennaio, saranno in fabbrica dal 12 gennaio tutti fino al 20 e sarà urgente fare le assemblee. Noi pensiamo che una consultazione vincolante per noi in questo caso è inaccettabile, perché si farebbero decidere i lavoratori di Mirafiori per tutti i lavoratori italiani, è come se un singolo comune potesse decidere da solo di separarsi dall'Italia. Questo francamente non lo consente la Costituzione italiana, non si capisce perché dovrebbero consentirlo a un voto di lavoratori, quindi noi come FIOM prenderemo la nostra opinione e poi i lavoratori, che sono la parte più ricattabile perché gli viene messa una pistola alla tempia, decideranno che cosa fare. Noi di sicuro non li lasceremo soli. Si va verso lo sciopero generale? Ma noi abbiamo deciso uno sciopero dei lavoratori del gruppo FIA, di cui dobbiamo decidere la data. Credo che a questo punto decideremo la data, si vedrà cosa fare. Intanto faremo di sicuro lo sciopero dei lavoratori del gruppo FIA, vedremo quando, in modo da farlo nel modo più partecipato ed efficace. Così appunto Giorgio Airaudo, responsabile auto della FIOM, raggiunto pochi minuti fa dal nostro Paolo Piacenza. Chiaro insomma che la FIOM non firmerà, è stracerto a questo punto, la critica l'avete sentita. Devo dire, non è il caso di aprire oggi il tema, che al di là della vicenda Mirafiori, a nostro avviso Sergio Marchionne è stato forse l'uomo dell'anno per l'economia italiana, non per quello che ha fatto, questo può essere giudicato in vari modi, ma per l'elemento di rottura che ha rappresentato. Nella puntata del 31 dicembre, che sarà una puntata dedicata ai fatti economico-finanziari del 2010, vi anticipo già che avremo una lunga pagina anche sull'elemento di rottura che ha rappresentato Marchionne, dicendo che insomma la Fiat è un'azienda globale, ragiona in maniera globale, anche però con qualche perplessità e osservazione, perché la Fiat ha indubbiamente in questo momento, al di là che di avere un problema con le relazioni industriali con la FIOM, ha un problema di modelli auto, perché il calo delle matricolazioni Fiat degli ultimi mesi è stato quasi doppio rispetto alla media di mercato in Italia e in Europa. Comunque, chiusa la vicenda Fiat per ora, vedremo che accordo arriverà. Traffico e poi la procura di Trani che apre un'inchiesta contro la più potente, o comunque una delle più potenti agenzie di rating al mondo, l'americana Moody's, quelle che danno i voti agli stati, ai paesi, quelle che possono fare crollare un gruppo o far andare in bancarotta uno Stato abbassando il voto, è l'inchiesta appunto della Procura di Trani. Allora, dopo il traffico, Trani contro Moody's. Minuti. Allora, volete sapere innanzitutto qual è il reato di agiotaggio? È un reato tipicamente finanziario e significa quando viene manipolato un titolo sul mercato finanziario con il fine, con lo scopo di cambiare i prezzi, quindi guadagnarci. L'agiotaggio è un reato, l'altro reato è l'insider trading, quindi l'utilizzo di informazioni riservate per comprare o vendere un titolo. E turbativa di mercato, anche in questo caso un altro reato. Bene, ebbene, di questi che sono i tre principali reati finanziari, oggi l'agenzia di rating Moody's se ne è beccata ben due, perché in sostanza la procura di Trani sta indagando contro Moody's per agiotaggio da un lato e market abuse, ossia manipolazione del mercato. Che cosa ha compiuto? Ha diffuso, secondo l'accusa, informazioni false o non del tutto vere, con l'effetto di fare crollare in borsa il mercato dei titoli italiani. Allora, Moody's ha risposto. A cosa fa riferimento? Questo fa riferimento a un report dello scorso 6 maggio in cui Moody's diceva in sostanza: attenzione, in Italia ci sono parecchie, adesso lo leggo con precisione, ci sono parecchie banche a rischio. Per la precisione, Moody's disse in un report a mercati aperti, tra l'altro, si affermava che il sistema bancario italiano in seguito al tracollo della Grecia era tra quelli a rischio. Ricordate che in quella giornata persero parecchio tutti i titoli bancari, poi si è visto che obiettivamente, a parte che noi demmo anche un gufo quel giorno a Moody's come omaggio perché non si capiva perché l'Italia dovesse essere più a rischio come sistema bancario nei confronti della Grecia, quando le esposizioni verso la Grecia delle banche italiane erano di soli 5 miliardi, quelle francesi erano e sono di 76 miliardi, quelle tedesche di 40 miliardi, quelle svizzere di 60. Insomma, complessivamente le banche europee sono esposte per 235 miliardi contro la Grecia, verso la Grecia, cioè hanno prestato soldi alla Grecia, e non si capisce perché quelle italiane, che sono una parte infinitesimale, dovessero pagare per questo. Da lì la denuncia dei consumatori italiani, e perché in realtà la Procura di Trani, abbiamo scoperto poi, ha aperto un'inchiesta per aggiotaggio dopo una denuncia di Adusbef e Federconsumatori. E il titolare dell'inchiesta, il PM Michele Ruggero, ha già fatto notificare al dirigente del Senior Analysis dell'agenzia un'informazione di garanzia. Moody's ha risposto dal canto suo che collaborerà con le autorità italiane sull'inchiesta, e questo è quello che vi possiamo dire al momento, nel senso che tra l'altro nel giorno in cui Moody's ha risposto così ha anche messo però sotto osservazione per un possibile taglio di voto nel lungo e nel breve periodo Unicredit medio credito centrale, quindi su Unicredit medio credito centrale, e ha minacciato nel caso portoghese di abbassare il voto ai titoli ABS, cioè quelli garantiti da altre attività finanziarie. Quindi ha continuato a lavorare anche oggi. Staremo a vedere, cercheremo, chiaramente abbiamo provato a farlo ma non ci risponde il PM di Trani, per capire quello che è alla base dell'inchiesta. Nel frattempo sono usciti dati americani che già ieri dovevamo commentare il PIL, non ce l'abbiamo fatta per via dell'approfondimento sull'Aquila, e allora occupiamoci adesso anche di America, uno degli ultimi approfondimenti di quest'anno sugli Stati Uniti. 349-238-6666 per i vostri sms. Le notizie dall'America ieri hanno riguardato un PIL rivisto leggermente a ribasso dal 2,8 al 2,6%, oggi invece ordini di beni durevoli a novembre meno 1,3%, però se si leva la componente trasporti è un più 2,4%, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione in America sono scese, in linea devo dire con le attese, sono scese a 420.000 unità. Sono aumentate le vendite di nuove case, più 5,5%, ma sotto le attese. Ed è, così concludiamo la carrellata, salito l'indice di fiducia del Michigan. Allora, visto che un po' che non lo sentiamo, ma ormai imperversa col suo programma America 24 e anche in altri programmi, vorrei un quadro sintetico e complessivo dal corrispondente del Sole 24 Ore negli Stati Uniti, che è in collegamento negli studi che abbiamo attrezzato anche Radio 24 a New York, Mario Platero, buonasera. Buongiorno Sebastiano, sì, in effetti un dato deludente rispetto alle aspettative. Ci si aspettava una correzione al 2,8%, una correzione al rialzo rispetto al 2,5% della revisione precedente, però in realtà la revisione è stata pur sempre al rialzo, più leggero, più contenuto, ma del 2,6%. Restano tassi comunque asfittici per l'economia americana, questo lo sappiamo, e dunque a questo punto direi, al di là di vedere che cosa è successo nel passato, c'è stata un'accelerazione delle scorte, c'è stata una domanda più contenuta al consumo, questi sono i due elementi che hanno influito sul dato del terzo trimestre, ma dicevo, dobbiamo guardare in avanti, dobbiamo guardare al 2011, c'è questa straordinaria sfida in atto, io l'ho chiamato un po' il Transatlantic Divide, da una parte l'America che cerca di spingere, di stimolare, che vuole tassi di crescita più elevati a costo di indebitarsi di più, dall'altra l'Europa che invece preme per politiche più del rigore. Sappiamo che cosa ha fatto l'America, è stato uno dei grandi trionfi bipartisan di Barack Obama, è riuscita a passare il prolungamento delle riduzioni fiscali di George W. Bush. Dal mio punto di vista il pacchetto complessivo non è solo 858 miliardi di dollari di quel pacchetto fiscale, ma parliamo di 1.500 miliardi di dollari di stimolo da qui ai prossimi due anni e forse non, diciamo, qualcosa più della metà da qui al prossimo giugno. Perché? Perché a quegli 858 miliardi di dollari occorre aggiungere i 600 miliardi di dollari stanziati dalla Federal Reserve, che la Federal Reserve spenderà sul mercato per sostenere il mercato obbligazionario da qui al prossimo mese di giugno. Dunque, la Fed da una parte, il governo americano, lo Stato americano dall'altra, una manovra di stimolo secondo me fortissima. L'obiettivo è quello di far crescere l'America al di sopra del 3% l'anno prossimo per poter rilanciare l'economia. La scommessa è altissima, perché qualcuno dice che alla fine queste concessioni fiscali finiranno sì nelle tasche dei consumatori americani, ma quelli le useranno il di più per risparmiare, per ripagare i debiti, non per consumare. The jury is out. Vedremo se avrà avuto ragione l'Europa o gli Stati Uniti. Dovremmo aspettare almeno sei mesi. Ecco Mario, grazie, scusami se ti mettevo un po' di fretta, ma siamo veramente in conclusione del programma. Grazie a questo punto, buon Natale anche Mario Pratero. Vi anticipo che nella puntata del 31 ci occuperemo anche dell'anno del 2010 dal punto di vista economico degli Stati Uniti. E adesso altre notizie che stanno arrivando soprattutto dal fronte dei mercati. Perché lo dico? Perché il Dow Jones in sostanza si è riportato su un livello di parità. Chi sta recuperando qualcosa è l'euro. L'euro a quota 1,31,08 nei confronti del dollaro, così come si è un po' calmato nei confronti del franco svizzero, o meglio, il franco svizzero ieri a record. Adesso siamo a 1,259 per quello che riguarda il rapporto di cambio. Ricordo anche che è l'ultima seduta di borsa prima del Natale, poi ci sarà la settimana prossima. Quella di oggi con un più 0,2%, abbiamo praticamente finito, manca solo l'appuntamento con Giuseppe Cruciani, di fronte a me con il cappello di Babbo Natale. Non ti credo che sarai buono oggi, Giuseppe. Sarò buonissimo, buonissimo, anche perché non sto molto bene. Solo per questo, diciamo. Sì, no, ma non solo per questo, perché ieri sono stato troppo cattivo. Vabbè, di cosa ci occuperemo oggi? Della conferenza stampa di Berlusconi, della conferenza stampa di fine anno, di questa possibilità del cambiamento del nome del PDL in un altro nome, eccetera, eccetera. Altre cose. Brunetta, è tornata a parlare Brunetta. E poi Bocchino, anche lui dopo qualche giorno di assenza contro Berlusconi, ma insomma, non è una novità. E le dimissioni delle Prestigiacomo, dimissioni dal gruppo parlamentare rientrate. Sembra. Allora, buon Natale anche a Giuseppe Cruciani. Domani, infatti, ripeto, la programmazione sarà un po' diversa. Noi saremo in diretta dalle 17 alle 18, quindi gli auguri veri, o meglio, gli auguri a tutti voi li facciamo domani. Da Sebastiano Brigioni per ora è tutto, vi lascio al resto della programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.